Analog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Spiumate vive per interminabili minuti, testa e zampe immobilizzate per sbrigare velocemente la pratica. Ci sono 10.000 oche da spennare in soli 4 giorni. La carne finisce sempre contusa, spesso lacerata e sommariamente disinfettata. Mi ha messo un puro pronto. Ma è una bella ferita grossa però. Non è per compassione. Le oche spennate in maniera cruenta per riempire i caldi piumini che rendono felici uomini, donne e bambini. Questo è il punto dell'indignazione che in questi giorni sta attraversando il web, non soltanto in Italia, in maniera precipua. Lo sapete, tutto nasce da un'inchiesta di Report che è risalita lungo il fiume della creazione dei piumini di un noto marchio, la Moncler, e ha determinato questa inchiesta, perlomeno poi c'è una questione giudiziaria perché la Moncler su questo si è arrabbiata, quindi ha messo di mezzo gli avvocati, le denunce, che comunque questi piumini deriverebbero da uno spennamento non ortodosso delle oche in uno stato lontano dell'Ungheria, negli allevamenti ungheresi, dove queste signore spennano le oche non secondo il protocollo universalmente accettato, che vuole che l'oca sia spennata con un pettinino dolcemente, fa cadere piumetta dopo piumetta. Poi, risalendo all'origine, si è visto che le oche vengono spennate, come una volta vedevo spennare le galline, solo le galline le spennavano dopo avergli tirato il collo, le oche le spennano ancora vive e continuano a spennarle all'infinito finché ci hanno ancora fiato. Questo ha naturalmente creato una sorta di onda anomala attraverso il web di persone indignate che dicono: mai più metterò un piumino. Ora, in questa puntata a me non interessa entrare nell'aspetto economico, sull'improvviso effetto borsa che ha avuto la Moncler a seguito di questo servizio, sul prezzo dei piumini, se si è eco, se non si è eco, se l'esternizzazione in uno stato lontano di un prodotto sia giusto o non sia giusto. Sono questioni che non riguardano questo programma. Io voglio trattare proprio l'effetto emotivo che si è scatenato nel web. Lo faccio perché ieri, parlando di una trasmissione che nulla aveva a che fare con questa materia, parlavamo di web, di diritto alla privacy, di diritto all'oblio e via dicendo, già subito ho avuto un ascoltatore che ho citato proprio in coda di trasmissione: non scherzi sulle povere oche. Anche perché il problema sembra che poi quella che si paga per piuma d'oca sia piuma di papera, quindi a questo punto la domanda è: vi indigna più che sia spennato ciccio di nonna papera o paperino? I postumi di un servizio come quello dell'ultima puntata di Report su Rai 3, dedicato al maltrattamento degli animali, delle oche in particolare, in una grande azienda come Moncler, non possono che essere negativi per un'azienda di lusso come questa. L'effetto il giorno dopo è inevitabilmente devastante, con il mainstream scontroso della rete, commenti indignati, ma soprattutto il titolo in rosso all'apertura di borsa tra i peggiori di Piazza Affari. Moncler corre ai ripari, aggiorna la sua pagina web dedicando l'home page alla replica. Moncler, a seguito della trasmissione di Report di domenica 2 novembre, specifica che tutte le piume utilizzate in azienda provengono da fornitori altamente qualificati che aderiscono ai principi. Questo è il servizio del TG3 che puntualizza quella cronaca del fatto che però questa mattina mi interessa fino a un certo punto. Non voglio entrare in merito chi abbia ragione o chi abbia torto, ma voglio giocare sull'effetto collettivo. Ho visto amiche mie che fino a un istante prima erano coperte di piumini dalla fronte alle caviglie, dire: da oggi metterò soltanto il cappotto. Ma il cappotto è fatta con la lana, è fatta con le pecorine tosate, quindi anche lì probabilmente, se qualcuno facesse vedere come tosano le pecore, che ne so, i pastori della Transilvania, non so esattamente da dove venga, o della bassa Mongolia, probabilmente vedrete la pecorina con una faccia non certo contenta, allegra. Quindi a un certo punto probabilmente ci accorgiamo di avere una sensibilità assolutamente capillare che tocca ogni ganglio interno della nostra coscienza quando la televisione, quando la rete ci propone qualcosa di emotivamente forte, legato comunque a una sorta di idea assimilata generalmente di rispetto totale, generale, cosmico della natura e soprattutto degli animali. Matteo, buongiorno. Sì, buongiorno. 800240024, come la pensate? Ciccio di nonna papera oppure paperino? Oppure nessuno di due? Mettete soltanto piumini con dentro l'imbottitura sintetica. Eccomi, Matteo. Allora, personalmente io non vesto capi di questo valore, perché nonostante possa permettermeli, non ritengo che valgano questo valore come... Beh, uno paga il brand, paga il... Chiaro, sì, se uno vuole un capo tecnico, è un altro il marchio che si deve rivolgere. Questo è quello che voglio riferirmi. Io compro e spendo cifre anche elevate per capi tecnici realmente. Per esempio, quando vado ad arrampicare ho bisogno di tessuti particolari che certo. siano resistenti, che siano impermeabili e quant'altro. Che gliene importa del piumino che butti bene o col disegno dello stilista giapponese sopra, figuriamoci. Esatto. Però e lì c'è la piuma d'oca, lì c'è la piuma d'oca dentro, certo, chiaro. Sì, assolutamente. Perché la cosa migliore, se uno vuole andare in alta quota ed avere un capo serio, c'è la piuma d'oca, logico. Sì, esatto, ok. Però la mia chiamata era riferita a un'altra cosa. Cioè, io trovo assolutamente assurdo come questi servizi siano negativi per le aziende italiane che investono e offrono lavoro, ok, la gente mi può dire sì, ma questi hanno delocalizzato tutto, hanno la produzione all'estero, di qua di là, ok, però intanto le tasse le pagano in Italia, quindi come... È quello che ha scritto ieri Vittorio Feltri nel suo editoriale, porta un paccone di soldi di tasse, di contributi, che fa questi piumini, comunque da lavoro delle persone, se poi per un principio accettabile, nessuno può negarglielo, se un'azienda ha un maggior profitto nel fare certe attività fuori piuttosto che in Italia, non è che gli si può negare questo, evidentemente le nostre oche costano troppo, ma in generale sull'effetto emotivo del web legato alla piumina della povera oca che improvvisamente ci se ne accorge, ma dormite sonni tranquilli, perché anche il piumone che avete dentro il quale vi coprite e vi accoccolate vicino al vostro amore per la vita è fatto con le piume di oche innocenti. Silvana, buongiorno. Buongiorno, sono appunto Silvana, chiamo da Varese. Allora, innanzitutto io premetto e dico che non ho mai utilizzato nulla di né piume d'oca né tutto ciò che è pelliccio, cose varie, perché è una cosa che ho sempre da sempre sdegnato e mi sono sempre vestita con roba sintetica. Ma perché dà fastidio? Sinceramente non capisco, cioè non siamo più nell'era dove bisognava uccidere gli animali per potersi... Ma mica l'oca si ammazza per spennarla, normalmente si toglie. No, l'oca no, però a questo punto, che so, le pelle di leopardo che si usavano anni fa... Ma che c'entra, il leopardo in via d'estinzione, le oche ce ne stanno tante, sono fatte apposta per dare le piume. Io non ho mai utilizzato perché non mi piace prescindere. Vabbè, è una sua convinzione religiosa, etica, rispettabile, mica di meno. Benissimo. Però via questo dico, i signori che da sempre hanno utilizzato prodotti con piumini d'oca, ma cosa pensavano che c'erano dentro? Che normale che c'era dentro piuma d'oca. Poi, se no, sembra che sia piuma di papera, che è meno pregiata e costa meno. Quindi tutti i casi anche le papere vengono spennate, non è che viene fatto un altro metodo. Beh, non è che prendono loro con la palma, piuma per piuma ce la regalano, certo, vengono tenute ferme e spennate. Sicuramente alla base qualcosa ci deve essere dentro, a base di animale. Quindi è inutile che se ne andiamo a fare tanto i meravigliati, non pensavamo, non credevamo. Sicuramente che forse andrebbero spennate in maniera più umana, non ne metto in dubbio, però che gli vengano a dire... Con l'anestesia, guardi che non spennare non dà mai molto gusto. No, magari... Ma nemmeno essere tosate, la pecora non è che ci va a nozze per essere tosata, no, viene tosata perché magari, è necessario. Magari se viene tosata in maniera più carina, delicata, penso che forse poi viene... Insomma, una depilazione dolce, diciamo, rispetto alla striscia. Magari si possono utilizzare anche metodi un attimino meno cruenti. Non lo so, questo non lo so. Però indipendentemente se è giusto fare così o non è giusto. Fermo un attimo. Andiamo a un punto tecnico. 800240024. Bruno Ballardini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Esperto di marketing, comunicazione strategica, autore del libro Leader come Francesco, perché il Papa è un genio del marketing, edizione PM. In questo caso, cosa avevi detto questa grande operazione? Un concorrente che ha voluto dare contro a un concorrente tirando fuori questa cosa delle penne d'oca, una grande follia collettiva, improvvisamente Ciccio diventa il martire dei nostri piumini, della nostra vanità, o semplicemente è un giusto servizio che viene fatto all'umanità di spiegare che la piuma d'oca viene ottenuta strappando la piuma alla povera oca? Ma io credo che il servizio purtroppo abbia avuto una cassa di risonanza nella rete e quindi si è creato un cocktail micidiale, perché fermo restando che ci si aspetta dal giornalismo italiano d'inchiesta un maggior rigore, visto che serve, è utile, è un servizio importante per la comunità, ma noi lo sapevamo tutti che i piumini sono fatti con le piume e le piume d'oca o di anatra o di papera sono strappate, no? Lo sappiamo. Cioè, non è che cadono da sole. Tutto questo casca in una società ormai votata all'ipocrisia. Adesso io non voglio fare il sociologo d'accatto, però... Insomma, ma dovremmo fare altrettanti servizi sui Wurstel, come vengono fatti, i poveri maialini, dovremmo dire che periodicamente, che nel periodo di Pasqua vengono sgozzati 800 agnelli, no? E così via. I porcellini sardi da latte, ecco, cotti, allora, arrostiti sottoterra con quel buon profumino, e quelli stanno con Peppa Pig tranquilli, perché uno li fa? Il problema siamo noi, il problema di fronte ai media. I media ormai sono ripropongono un blob costante di dati senza fornire gli strumenti per la loro interpretazione. In mezzo a questo siamo noi che dobbiamo diventare spettatori attivi, riuscire a analizzare, a interpretare in modo corretto, ma non abbiamo gli strumenti. In questa situazione il risultato è micidiale, perché poi finisce che alcune aziende magari vengono citate, ma mica sono le uniche, cioè non è che i piumini d'oca li fa solo la Moncler, cioè è ridicolo questo. Ecco, quindi passa questo messaggio però. Ci sarà che, dicevo, oltre al piumino, che la gente può provare invidia per il lusso, per la vanagloria e per la lussuria delle cose belle, che io trovo accettabile, se non se lo può permettere fa bene a comperarselo, se lo fa star bene, ma se non ci fosse nemmeno l'industria del lusso saremmo ancora più in crisi. Ma anche il misero piumino che copre come coltre le notti di tante persone, nelle sue, diciamo, versioni più costose c'è la piuma d'oca dentro, ve ne accorgete? Tutte quelle piumettine che trovate la mattina attorno al letto, se non è di grande qualità, quelle vengono da animale che è stato spennato, non è che vengono dal cielo sulle piume della luce dell'angioletto che vi vegliava la notte. Melog, cronache meridiane. Un saluto a tutti voi, mi trovo a Rapagnano ai preparativi della sagra dell'oca arrosto. Ecco, notate il lavoro, la pulizia e l'artigianale. C'è un grosso lavoro artigiano, come vedete non è semplice. E poi l'oca viene insaporita e il segreto è nella miscela dei sapori che viene data. Questa è la sagra dell'oca Rapagnano, devo dirlo alle persone che si indignano. E ci sono le oche che stanno spennando, questo è il colpo della mannaia che le decapita, e il colpo da maestro, dice questo signore, è infilargli nel sedere dell'oca il rametto di rosmarino. Questo dovrebbe indignare altrettanto, perché quelle oche non è che quando sono nate sognavano di fare questa fine. Questa è una produzione seriale di spennamento, di decapitazione e di infarcimento con rosmarino delle oche. Quindi queste cose sono sempre accadute. Poi se pensate che l'umanità decide a un certo punto che queste cose non accadano più, sarà un passo avanti di civiltà. Ma al momento viviamo in un momento di transizione, c'è un'isteria generale, sembra che improvvisamente tutti si accorgono di eccidi nascosti che vengono compiuti, e in realtà conviviamo tranquillamente, che poi i signori e le signore che dicono metteremo il cappotto, ma più metteremo un piumino in prima d'oca, poi vorrò vedere da qui a qualche settimana quando cambierà il tempo, poi vanno a Rapagnano e si leccano i baffi a mangiare l'oca farcita. Monica, buongiorno. Buongiorno Nicolini, buongiorno. Sì, Nicolini, poverino, è morto qualche anno fa, era una brava persona. Prego, avanti. Cosa dire? Allora, a me la cosa che in assoluto indigno, più che altro fa un po' più tristezza, al di là delle oche che insomma già si sapeva, non è una cosa che nuova questa di Report. Sì, non è una gran fortuna nascere oca. Sul web queste informazioni, come tante altre, ci sono da sempre. Quello che purtroppo è che alcuni spaccati di realtà sembra che esistano solo se le dice la TV o se le dice un certo tipo di TV, quando, ripeto, ci sono da sempre. Il problema non è solo le oche, a parte poi una cosa tecnica, che lei diceva che le cose calde sono solo fatte con le piume d'oca, non è vero, perché insomma un capo tecnico d'alta montagna ancora difficili, che materiali sintetici. Sono fatti in Gore-Tex, sono fatti in tanti altri ma il Gore-Tex è il rivestimento esterno, all'interno ci deve mettere qualcosa. No, ci sono fatti per esempio con le bottiglie riciclate, ma questo non ha importanza. Qualora anche fosse veramente più caldo quello d'oca, bisognerebbe trovare un'alternativa se si vuole. Ma su questo sono d'accordo, che io sono convinto che occorra lavorare su dei materiali che diano le stesse caratteristiche, ma allo stesso tempo non ritengano necessario. Sì, ma anche la pelliccia, lei guardi, fino a, signora, lei non so adesso la sua età, ma fino a 30 anni fa avere la pelliccia era considerato, le ragazze di Lecce che venivano a studiare a Roma e venivano con la pelliccia, poi sentivano molto fighe. Oggi, ma nemmeno gli verrebbe in mente una ragazza a farsi regalare una pelliccia. Il regalo all'amante, cosa voglio, cara, vuoi una pelliccia? Alberto Sordi regalava le pellicce alle sue amanti. Ma oggi fa ridere la cosa, probabilmente si farà avanti un passo nella studio della tecnologia, sarà un materiale per riempire i nostri giubbotti che non siano le piume, che poi fra l'altro ogni tanto escono, pungono, ne manco la fine del mondo. D'accordo, Betty. Buongiorno. Betty. Sì. Io volevo dare un altro punto di vista. La mia considerazione parte dal punto di vista non tanto del fatto che si usino le piume piuttosto che la lana, perché gli animali sono sempre serviti e quindi se anche ci sono delle alternative oggi che prima non c'erano, può andar bene. Io non sono animalista sfegatata, però il discorso è della sofferenza. Quello che si dimentica è che se prima le pecore venivano tosate piuttosto che le piume venivano, le oche venivano spiumate, veniva fatto nel rispetto dell'animale, cioè non c'era la sofferenza. Se un'oca viene uccisa con un colpo secco, a prescindere che poi si mangi o non si mangi la carne, questa è un'altra questione. Il discorso è semplicemente di non fare soffrire questi animali. Le oche spiumate in questa maniera, violentemente più volte nell'arco dell'anno, possono provocare un tale stress che fa del male agli animali. Ma io pensavo che anche le nostre donne, comunque, quando dovevano riempire i loro cuscini, spennavano le oche, ma probabilmente sì, spennavano nello stesso modo. Le stesse non oche che mangiavano, però. No, certo, ma allora apriamo il discorso del nutrimento. Se vogliamo non mangiare. Sì, vabbè, adesso poi andiamo in un discorso troppo lungo e anche un pochino noioso, perché è stato fatto tante volte. Bruno Ballardini, vedi come però è facile riportare alla realtà la sagra dell'oca, in cui fanno vedere qualcosa di anche molto più curento, se vogliamo dire. Se avesse fatto la Gabanelli un servizio sull'oca lardellata, probabilmente oggi saremmo tutti lì con i forconi ai confini di questo paesino, non so, del Frusinato o qualcosa del genere. Ma io trovo tutto questo è una conferma dell'ipocrisia generale, perché noi da un punto di vista culturale siamo in una seconda fase, cioè se riprendiamo la visione di antropologi come Lévi-Strauss, si passa dal crudo al cotto. Il crudo è il materiale che noi ci procuriamo con la caccia, con le nostre mani, nella fase più naturale, cioè è crudo. Poi dopo interviene la cultura che elabora questo materiale e lo fa diventare cotto. Per questo io avevo fatto l'esempio della wurstel o del salsicciotto, perché in quell'oggetto non è più visibile tutto il procedimento precedente, c'è di mezzo la cultura. Non so se tu hai visto, ci sono dei documentari che poi nessuno vede, perché che fanno vedere come fanno gli prendono i pulcini vivi, quelli che non vanno bene li buttano vivi dentro una specie di macina, certo. E macinano tutto, zampe, galline, code, penne, e viene fuori quella bella pasta rosa che ci fanno i wurstel. Ora solo con la cultura, con una visione più oggettiva delle cose, noi riusciamo a superare questa ipocrisia maledetta, perché altrimenti l'estremo opposto è non vedere la guerra, per esempio, con i droni che arrivano e ammazzano i bambini nelle scuole, ma torniamo a casa tranquilli perché tanto non abbiamo visto niente, eppure c'è stato un drone, non l'abbiamo visto. Ecco, questo è il modo in cui procediamo. Per il resto è ordinaria amministrazione. Purtroppo il giornalismo non ha formazione di tipo metodologico. Il nostro giornalismo è butta lì a volte delle notizie in modo così grezzo, forse crudo, diciamo, ma non abbiamo più gli strumenti, perché siamo completamente deculturati. Diciamo che l'importante è fare il colpo. Oggi Brinda Champagne, che ha fatto questo servizio, perché l'Italia parla solo di quello e non soltanto l'Italia, ahimè, cinicamente è così. Cosimo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io devo dire la verità, quando ho guardato Report a me ha fatto molta impressione le condizioni degli spennatori più che delle oche. Sicuramente L'empatia, diciamo, del popolo sugli animali è molto più ampia rispetto a quella. Se nessuno ha visto gli spennatori. Dunque, le faccio una domanda, Cosimo. Ricorda quel film con Nino Manfredi, Pane e cioccolata? Era la storia degli immigrati meridionali italiani che andavano in Svizzera, li prendevano meridionali perché erano piccoli, vivevano nei pollai con le galline. Vivevano spennando galline, tirando il collo alle galline tutto il giorno, e il loro tempo libero era giocare a fare l'imitazione della gallina. Vivevano in una grande realtà ovattata di piume di gallina. Allora era considerato come il paradosso più estremo dello sfruttamento umano, nessuno pensava alle galline spennate. Oggi l'ha detto giustamente, i poveri contadini ungheresi a livelli, diciamo, di miseria totale, che passano la vita spennando le oche, a nessuno gliene importa nulla, naturalmente. Assolutamente. E questo è un giusto paradosso che l'ha evidenziato. Claudio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Ma allora, premesso che sono d'accordo con Ballardini, premesso che, tra virgolette, chi magari fa questi servizi poi magari va da cracco a mangiare salame d'oca. Certo, chiaro. Premesso che, sempre tra virgolette, il sottoscritto è animalista, convinto. E va dal punto, perché la sigla ci sega. Dal punto, che la sigla ci sega, se no. Fa la fine delle ore. Ma a parte tutto ciò, io dico, determinati reportage, ci dovrebbe anche un attimino pensare bene, perché voglio dire, cioè, Moncler, in un momento in cui tutte le griff, i brand italiani, sono acquistati dalle compagnie estere, francesi, catarini, sì, e quant'altro. Dai, classica, ecco, il punto. Abbiamo un'azienda, Cristo, santi Dio. L'abbiamo già detto, che va bene, e proprio a lui andate a dare zampate sulle palle. L'abbiamo detto, non ho detto nulla di nuovo. A domani.